Mercoledì 8 aprile, 8 aprile, è un mese, è poco più di un mese che siamo qua. E dunque mi si conceda d'essere incoerente. Tanto si sa, questo non serve a niente. You know my life has not changed that much. I get up late in the morning and I check my email. I drink coffee and eat some cheese. Come dice Antonin Artaud, nessuno ha mai scritto o dipinto, scolpito, modellato, costruito, inventato, creato, se non per uscire dall'inferno. Inferno. Il sole splende questa mattina. L'aria è cristallina. Sempre Artaud suggeriva che là dove si sente l'odore della merda, là si può sentire l'odore dell'essere. Là où ça sent la merde, ça sent l'être, l'essere. E questo decomporsi, questo succedersi del tempo, questo venire meno, questo leggero diventare nulla, approssimarsi al nulla. E Hölderlin, prima di diventare Stancanelli, chiedeva e rispondeva: può, quando la vita è dolore, l'uomo guardare in alto e dire voglio essere così? Fin quando l'amicizia persiste nel cuore, può l'uomo paragonarsi alla divinità? È forse Dio sconosciuto? Oppure appare chiaro come il cielo? Io credo piuttosto questo. È la misura dell'uomo, pieno di meriti, ma poeticamente abita l'uomo su questa terra, ma l'ombra della notte con le sue stelle non è più pura che l'uomo, se vogliamo dire così. C'è forse una misura sulla terra? Non c'è, perché i mondi del creatore non trattengono mai la corsa del tuono. Un segno noi siamo, senza interpretazione, senza dolore noi siamo e abbiamo quasi perduto il nostro linguaggio in terre straniere. Se c'è un filo, e forse c'è, o forse non c'è, nelle considerazioni poetiche che cerco di cucire fra di loro, il filo è questo. Lo dice Hölderlin: un segno siamo senza interpretazione. Abbiamo costruito cattedrali di significato, abbiamo coordinato, collegato, congegnato, connesso fra loro innumerevoli segni in una architettura unitaria che chiamiamo con nomi differenti, talvolta storia, talvolta società, talvolta economia, talvolta in altri modi. Ma ecco poi che se da un altro universo, da un universo per noi invisibile, giunge un segno perturbatore, ecco che l'ordine del significato perde consistenza, perde coerenza, si sgretola. L'ultimo numero dell'Economist, quello che potete trovare in edicola, se avete voglia di comprarlo, altrimenti potete andare online e avete diritto a 5 articoli gratuiti dell'Economist. Beh, l'ultimo numero dell'Economist si chiama A Grim Calculus. Grim vuole dire triste, cupo, tetro, anche feroce, se vogliamo. E l'editoriale di questo numero dell'Economist inizia con una considerazione tetra, per l'appunto, relativa al numero dei morti. Quanti morti ci costa l'epidemia di coronavirus, che lungi dall'essersi esaurita sta ora raggiungendo gli Stati Uniti d'America, dove sembra destinata a devastare più di quanto ha fatto in altri territori del mondo. Quanti morti ci costa? La risposta naturalmente non è univoca né facile, non lo sapremo mai in un certo senso, ma quello che possiamo sapere è che se rispettiamo alcune regole ferreamente, il numero dei morti decresce, diminuisce, si riduce. Sono stati fatti calcoli per valutare quanti sarebbero i morti se non fossero state adottate misure di lockdown. Comunque l'esperienza che la Cina ha accumulato per prima e che si sta diffondendo in altre aree del mondo sembra dimostrarci che il numero delle vittime si riduce di molto, si riduce enormemente, se stiamo chiusi a casa, senza consumare, senza produrre, senza recarci nei luoghi affollati in cui si compiono le attività produttive, però contemporaneamente anche senza scambiarci il pericoloso virus che in alcuni casi porta al decesso. Bene, questo è quello che l'Economist dice, tanto per cominciare. Se stiamo a casa i morti diminuiscono, però l'Economist, che è un giornale realista e che è sempre stato, fin da quando fu fondato 150 anni fa, capofila della stampa liberale, l'Economist, che negli ultimi decenni ha costantemente affermato, proposto, riproposto le politiche liberiste per trasformare il mondo secondo il principio del massimo profitto e della massima competitività, l'Economist svolge una seconda considerazione. Dice: certo, se vogliamo ridurre oggi il numero delle vittime, dobbiamo fermare tutto. Ma fermare tutto, quante vittime ci costerà nei prossimi 6 mesi, 12 mesi, 2 anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni? Quali saranno, si chiede l'Economist, gli effetti del lockdown sulla produzione, sulla distribuzione, sull'economia? È una considerazione a cui non possiamo sfuggire. Dobbiamo senza ipocrisia, assumere, accettare una riflessione su questo punto, su questo tetro calcolo, su questo calcolo feroce. Dunque, quali conclusioni possiamo trarne? Conclusioni è dir troppo. Quali considerazioni possiamo ricavarne? Stiamo noi forse creando le condizioni per un abisso di miseria, di disoccupazione, di violenza, forse anche di tirannia, di totalitarismo, di guerra civile nel mondo, perché dopo 2 mesi, 3 mesi di blocco delle attività economiche sarà ben difficile riprendere senza traumi il filo del ragionamento? Beh, la risposta dell'Economist è sì, e noi stiamo preparando una fase molto drammatica e, suggerisce l'Economist, è nostro compito, il nostro è compito dei leader politici e valutare bene i costi e i benefici di questo lockdown e misurare con estrema cautela la durata e l'ampiezza di questo lockdown. Come vediamo, le associazioni padronali in Italia come altrove, la Confindustria nel nostro caso, sembrano ansiose di riprendere la produzione, di ricominciare a fare come sempre si è fatto, insomma di tornare alla normalità. Allora, io faccio una considerazione, che l'Economist ha ragione. Se assumiamo che dopo il lockdown, dopo l'epidemia, si deve tornare alla normalità. Se torniamo alla normalità, se ritorniamo ad applicare i criteri che abbiamo applicato fino a un mese fa, se ritorniamo all'economia di profitto, se ritorniamo ad un'economia che considera la crescita del prodotto interno lordo come il valore assoluto di riferimento da cui in nessun caso si deve deflettere, ebbene, in quel caso, certo, le vittime, i disastri, le sofferenze si moltiplicheranno. Questo non vuol dire affatto che dobbiamo affrettarci a riprendere, vuol dire al contrario che dobbiamo riflettere bene prima di ricominciare l'attività. Dobbiamo chiederci se l'attività umana, quella del produrre, dell'inventare, del collaborare, del costruire, del distribuire, del consumare, quella attività debba necessariamente essere governata dalle regole, dai criteri che la hanno governata nel passato. Se noi facciamo questo, non abbiamo imparato nessuna lezione e pagheremo un prezzo assai alto all'epidemia. Se sapremo invece riconoscere non il profitto ma l'utile come criterio che guida, che guiderà l'attività umana, ecco che allora forse saremmo in grado di ripensare tutto, secondo un criterio differente. Di cosa abbiamo bisogno? Di soldi, denari, dollari, euro, di un rapporto bilanciato fra il debito e il credito. Se continuiamo a calcolare i debiti e i crediti non ne usciremo mai, anzi ne usciremo malissimo. Probabilmente è il momento di dimenticare l'esistenza stessa del concetto di debito. Non vi è più alcun debito. Il virus ha pagato il debito di tutti. E dunque, come ricominciamo? Ricominciamo elencando, come in una lista, elencando ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di mascherine, di ventilatori? Non è il denaro che ce le procura, è il lavoro, è l'invenzione, è l'attività di tecnici, medici, scienziati, biologi. E poi di cosa abbiamo bisogno? Di cibo, di sole, di poesia, di abiti, di oggetti, di strumenti per la comunicazione, di trasporti pubblici, di insegnamento in una scuola pubblica, di tantissime cose abbiamo bisogno. Sono tutte cose che l'attività umana, nel suo coordinamento, nella sua collaborazione, può produrre. È la misura che è venuta meno. Non c'è più misura. Il denaro non è più in grado di comprare nulla. E come dice Hölderlin, c'è forse una misura sulla terra? Non c'è. Perché i mondi del creatore non trattengono mai la corsa del tuono. Mi si conceda, dicevo, di essere incoerente. Però, leggendo l'Economist, mi viene in mente che forse quello che ci occorre è mettere a frutto l'esperienza che abbiamo accumulato prima e durante il lockdown per inventare una forma della relazione sociale che non riproduca le condizioni dell'inquinamento, dello spreco militare, dell'impoverimento, della disoccupazione come fattore di miseria, della precarietà come strumento di sfruttamento. La parola sfruttamento ha un significato molto preciso. Quando il lavoro dell'uomo è considerato strumento per l'arricchimento dell'altro uomo, parliamo di sfruttamento. Ma quando l'attività è finalizzata non ad accumulare, ma a soddisfare i bisogni del sociale, lo sfruttamento scompare. Tutto qua. Questo è quello che volevo dire oggi. Poi, siccome ho un po' perso la strada, allora leggo Montale, leggo Suonatina di pianoforte. Vieni qui, facciamo una poesia che non sappia di nulla e dica tutto lo stesso, e sia come un rigagnolo di suoni stentati che si perde tra sabbie e vi muore con un gorgoglio sommesso. Facciamo una suonatina di pianoforte alla Maurizio Ravel, una musichetta incoerente ma senza complicazioni che tanto credi proprio a grattare nel fondo non c'è senso. Facciamo qualche cosa di genere leggero. Vieni qui, non c'è nemmeno bisogno di disturbare la natura coi suoi seriosi paesaggi e le pirotecniche astrali, né tireremo in ballo i grandi problemi eterni, l'immortalità dello spirito o altre tali garbugli. Diremo poche frasi comunali, senza grandi pretese, da gente ormai classificata gente priva di profondità. E se le parole ci mancheranno, noi strapperemo il filo del discorso per svagarci in un minuetto approssimativo che si disciolga in arabeschi d'oro, si rompa in una gran pioggia di lucciole che dispaia, lasciandoci negli occhi un pullulare di stelle, un ossessone di luci. Poi, quando la sonatina languirà davvero, la finiremo come vuole la moda, senza perorazioni urlante d'enfasi. La finiremo, se ci parrà il caso, nel momento in cui pare ricominciare, il pubblico rimane con un palmo di naso. La spegneremo come un lume, di colpo, con un soffio.